Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Scambio corto, limite dell'area, contropiede, catenaccio, lancio per il cross, doppio passo, rima dei poeti, finta e tiro, rosa terra per un bel gol. Nel calcio non si sa mai, sembra una partita facile per loro, ma il pallone è rotondo. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda, ribalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. Una partita importante, può essere anche una partita decisiva, ma normalmente la partita decisiva sarà la prossima, non solo per noi, perché se Leverkusen vince a Borisov non avremo più il nostro destino, come l'ho detto. Donanista, squadra corte pressing, incornata scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che è scoppiato un po'. Se facciamo solo in modo di difendere tutta la partita la perderemo. Per questo che ho detto che domani bisogna sfruttare ogni opportunità, abbiamo giocato i giocatori anche noi di grande talento. La palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda, ribalza, si insacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla è rotonda, un tocco di tacco. La palla è rotonda, Garcia si trincera dietro i vecchi luoghi comuni del pallone. Prima di questa sfida pericolosissima col Barcellona. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Noi bene, la Roma non so perché stasera rischia. Rischia una sfida. Perché si juega contro il Barça, che è il miglior equipo del mondo, no? Può essere che tiene problema, però vamos a ver, no? È bello comunque esserci, credo. Sì. Almeno prima. Bisogna vedere come va a finire. Dopo, e la Roma comunque la sua corsa ovviamente non la deve fare sul Barcellona, la fa su Bayer Leverkusen e Bate. Mancano due partite e insomma io penso che se la Roma farà il suo dovere contro il Bate e non ci saranno cose strane al Leverkusen, la Roma potrà farcela, e sarebbe un grande risultato dal punto di vista economico, dal punto di vista del ranking e anche delle possibilità, perché poi nella partita secca secondo me la Roma se la gioca con quasi tutte. Quasi tutte. Sì, sono dei numeri però che fanno impressione. Cioè, secondo me, comunque è chiaro che la Roma non fa la corsa sul Barcellona, perché è impossibile farla in questo momento contro la miglior squadra del mondo. Però questa sera serve quantomeno giocare una partita che ti permetta. Salvare la faccia è brutto, però il senso è quello. Certo. Perché 117 gol messi su Suarez, Neymar nel 2015. Tutta la Roma nel 2015 ne ha segnati 71. Questi gol praticamente mi sembra che il Bayern Monaco tutto quanto abbia fatto 119 gol. Questo Barcellona secondo me è il più bello di quest'epoca. A me piace di più rispetto a quello. Vabbè, so che tu sei affezionato a Tiki Taka, però. Ma io in realtà io non sono affezionato. Sono affezionato alla trasmissione, ma in realtà ho già detto varie volte che il Tiki Taka. Intanto remontata a Roma col Barça, con Ponce da 3-0 a 3-3, perché sai che c'è la partita di Youth League. Io non sono così innamorato del Tiki Taka. Ti piace più questo o quello? Quello di Guardiola? Questo mi piace molto. Poi Luis Enrique mi sta simpaticissimo, perché lo trovo veramente. È venuto a Roma, ha fatto anche degli errori a un certo punto, sicuramente. Insomma, ci ha messo del suo. Non è che adesso, siccome ha vinto la Champions, tutte le cose che faceva improvvisamente vanno viste con una luce diversa. Ha fatto anche delle prestazioni vergognose. Però insomma, era un grande personaggio. Questo lo si capiva subito. Era veramente un grande sportivo, un grande atleta, un grande innamorato del gioco. Un uomo anche, devo dire, di grande spirito sportivo. Certo, mi ricordo, certo, perso certo. Un derby all'ultimo minuto, il gol di Klose, comunque con grande serenità, insomma, distante da tutta una serie di polemiche o di situazioni di tipo diverso. È chiaro che quella era l'inizio, era proprio l'inizio di un progetto, anche l'inizio di una carriera, perché anche al Barça, insomma, ha passato. Ecco, sarebbe divertente con un gioco di parole, vai, pronti con i tweet, sarebbe divertente vedere Luis Enrique con questa Roma qui, cioè con una squadra che ha già una sua dimensione, fisionomia, identità. Pardo, due punti, Luis Enrique, perché torna a Roma. Lì, 8-0-0-24, no, 0024. Questo no. Ha cose migliori da fare, allena la squadra migliore al mondo, però sarebbe divertente vedere Luis Enrique in una squadra italiana di buon livello, di vedere cosa possa fare, perché la sua mentalità mi piaceva molto. E a me divertirebbe anche a questo punto vedere Messi da un'altra parte, sai, oggi torna a giocare, però in questo momento piacerebbe anche rivedere Ibra in Italia. Abbiamo un sacco di sogni. Sì. Sì, il sogno maggiore però è quello di trovare un proprietario come quello, la cui squadra, una delle cui squadre andrà a raccontare domani. Domani ho fatto un lungo giro di parole tortuoso. Domani non capisco niente. Domani te lo spiego. Juve City. Sì. Ti faccio leggere questa cosa. Ah, certo. Ti faccio leggere questa cosa. Il proprietario del sultano del Brunei. Sì. De Bruyne caro. De Bruyne caro. Per lui patrimonio 24,2 miliardi di euro. Patrimonio personale, quello della famiglia è 1420, più della metà del dell'interno debito pubblico italiano. Ha speso 400 milioni per uno yacht. Cosa vuoi che sia per lui spendere 34 per un belga? Certo. Ma non può fare un così assegno. Gli diamo in incomodato d'uso. Poi ne parliamo. Possibile che l'unico gli diamo che... un'isola in comodato d'uso. Allora, De Luca propone Procida. Guarda che la gente di Procida è molto chiusa, secondo me non. E che gli si può dare? Diamogli Ponza. No, ma io voglio dire, a me si sta. Però poi ci possiamo andare pure noi. Oppure no, aspetta, poi lì bisogna chiedere permesso De Laurentiis, che ti ricordi con Ponza ha avuto delle storie. Questo ci ripiana il debito pubblico in quanto facciamo il fiscal compact. Ma sai cosa mi manda ai pazzi? Che ma Barisoni che ne pensa? Barisoni che ne pensa? Le povere Milan e Inter. Allora, l'Inter ha trovato un proprietario che alla fine le ha prestato una montagna di soldi per un tasso di interesse molto elevato. Il Milan aveva trovato un compratore, ma non si trova più. Sono le uniche due che. Mistero. Mistero B. Ma Benignazzo quando lo sentiamo? No. Che avrà qualche notizia nuova. Su questi argomenti, Sciuglimmo sta matassa, come l'ho detto, Sciuglimmo sta matassa. Bene, mi sta insegnando il napoletano. Poi ti faccio sentire. Disse tiene chiave l'acqua. Ha già perduto Filippo e Opanar. Come vado? De Luca? Bravissimo, dice. Bravissimo. Sta imparando il napoletano. Perfettamente, tra le 2000 lingue. Poi ti faccio sentire, tra le altre cose, la ricetta di Tavecchio contro l'ultra. Sì. E soprattutto sempre Baita Vecchio, il manuale della perfetta doccia del calciatore. Non ci posso credere. Te lo giuro. 800 24 00 24. Oppure WhatsApp. Adesso ti giri WhatsApp, sono bellissimi. 349 238 6666. Dove li vedo i WhatsApp? Sul tablet, te lo do. Ma non può essere che tu sia così eccitato la storia di WhatsApp. Cosa vuoi che ti dica? Noi anziani ci eccitiamo con le novità tecnologiche. Voglio vedere che ti hanno mandato. Traffico. Credo che per la Roma è una situazione atractiva el hecho de tener que venir al Camp Nou a ganar. No le vale otro resultado porque considero que el otro partido del grupo, su máximo rival, puede ganar y ha de venir a jugar. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Pesce crudo d'Italia, Bari, ogni città c'ha qualcosa. A me a Udine mi piace il frigo, a Bari il pesce crudo. Fra poco ci colleghiamo col signor Paparesta, Paparesta, perché oggi non è un giorno banale per Bari, No, c'è triangolare. C'è il triangolare. Tu sai che il Milan è in una condizione, ho letto sui giornali, insomma, che anche letto sui giornali, ma i giornali scrivono un sacco di cazzate. No, vabbè, ma non dirlo che poi e soprattutto la colpa di ogni cosa, compresa la fame nel mondo è dei giornalisti. Dei giornalisti, sì, questo si questo sa, lo da sempre tutti, si sa. E, però insomma, sai che c'è anche paradossalmente una, insomma, anche il derby di oggi con derby amichevole, insomma, in questa situazione in per il momento, Milan chiaro. Diventa una partita dove sarebbe meglio non fare una brutta figura. Sicuro. Inter, tra l'altro, Inter e Milan sono in questo momento come l'oro e il ferro. E ovviamente l'oro non è il Milan. Ci sono un sacco di problemi, adesso si cambierà modulo perché questa ricerca nel buio, mi pare, sul modulo del Milan ormai ha assunto qualche contorno anche comico, no? Sì, sì, sì, sicuramente, ma insomma il Milan è in una fase, insomma, il Milan cioè quasi si diventa noiosi, nel senso che sempre, ma non ti sembra sempre identico a quello di Inzaghi? Mi sembra, no, non mi sembra, no, come spirito, non mi sembra identico, cioè, sicuramente non ha risolto il problema della personalità con le grandi, no? Perché insomma sicuramente stiamo parlando di una squadra che perde contro la Fiorentina, che perde contro l'Inter, che perde contro il Napoli, che ha perso contro la Juve, quindi ma soprattutto insomma, che sta perdendo la faccia un po' davanti a anche davanti a Matteo suo pubblico. Ci dice che l'inno del Bari non si può sentire, avranno anche il miglior pesce crudo, questo non c'è, non ci sono dubbi. Carissima, mi sto casando con WhatsApp, potreste chiedere a Galliani a chi per esso di dirci cosa ha intenzione di fare col Milan, non ne possiamo in più. Vedete, non fate i buffoncelli, invece li facciamo. Abbiamo, secondo voi Garcia ha paura di un risultato pesante? Oscar, sì. Da Domodossola, stasera il Milan vince facile, questi sono i nostri trofei, quindi autoironia da parte di Marco. Abbiamo un amico al telefono. Sì, Massimo. Chi? Mauro, buongiorno. Oh, però come va? Ciao Max, che ciao. Piacere. Come l'altro giorno mi avete evocato, allora ho detto mo chiamo. Cioè volevo chiamarti in questi proprio in questi giorni. Qualcosa di interessante. Allora grazie. Magari un 30 secondi posso contribuire anche. 30 secondi, anche vai, 30 vai, minuti vai, se vai. Vuoi. No. Dimmi. No, su cosa? Juve Milan, no? La possiamo paragonare, che so, in Spagna al Real Barcellona? Sì, mi vengono i brividi. No? Beh, in questo momento, francamente, sì. In questo momento no. Direi di sì. Avete visto le due partite? Una dietro l'altra. Nessuno si preoccupa di cercare di produrre un prodotto vendibile, un prodotto godibile. Diciamo che mi preoccupo prodomo mia, no? Perché lavorando in televisione, certo, è preoccupante se il prodotto scade sempre di più. Guardate che è una preoccupazione che mi piacerebbe discutere con gli allenatori. Cioè, sì. Si devono preoccupare a questo punto, dico io, di cercare di far giocare bene le proprie squadre, a prescindere dal risultato. Perché poi tanto li mandano via lo stesso. Perciò è stato avvilente vedere prima Real Barcellona e poi Juve Milan. Onestamente. No, sicuramente. Mi viene solo da dire che in realtà il Real Barcellona di quest'anno magari è stato Napoli-Fiorentina. Cioè, sono d'accordo con te, assolutamente. Il paragone fra quelle due partite era un paragone impietoso. Però in questo momento, insomma, se vuoi cercare la bellezza del gioco, non vai particolarmente a Vinovo e sicuramente non vai a Milanello. Magari vai a Castelvolturno o vai a Firenze. Però Pier, sono però d'accordo. È ancora più preoccupante. Pier, sì, è ancora sì, certo, più preoccupante, certo. No? Perché se le nostre grandi squadre sono arrivate a questo livello, vuol dire che in Europa non possiamo competere, e questo è un dramma, no? Perché se non possiamo competere in Europa ne risente tutto il movimento, e poi soprattutto perché è un problema che non si pone nessuno, secondo me, degli addetti ai lavori. Sai perché dico questo? Perché finite le partite, l'allenatore che ha vinto 1-0 giocando malissimo dice: però abbiamo fatto il nostro dovere. Chi ha perso 1-0 dice: sai, abbiamo giocato contro una grande squadra, che volete, questo potevamo fare, di più non possiamo fare. E sono le grandi squadre, però Massimo, le più grandi squadre, però, che abbiamo in come Italia. Fai a fare la corsa su squadre? Citavo prima il proprietario del Manchester City che spende 74 milioni per un giocatore che è De Bruyne, e per lui è come andare a mangiare una pizza, visto che ha un patrimonio di 1420 miliardi. E come fai a fare la corsa su Florentino Perez, che ne spende 883 nella seconda parte gioco, del mandato? Lo fai col gioco. Sì, lo fai col gioco. Fra l'altro devo dire la verità che Real Madrid e Manchester City sono proprio due esempi di squadre che Barcellona può prendere Neymar, può prendere Suarez, no, sono giocatori, non possiamo permetterci. Hanno dimostrato di essere più bravi, Carlo, hanno dimostrato di essere più bravi. In passato non è, cioè, Real, Manchester United, Barcellona, Chelsea hanno sempre speso più di noi, eppure l'Inter ha vinto il triplete, la Juve l'anno scorso è arrivata in finale. Secondo me invece è un problema che non si pongono, perché è diventato asfissiante da parte degli allenatori questa ricerca della grinta, determinazione e intensità. Ma mai nessuno che dice giochiamo bene. Sì, sì, sì, sì, grinta, intensità e determinazione. Ah, voglia di vincere. Sì, ho capito, ma se non sai fare un dribbling, se non sai fare un passaggio, uno stop, come fai a giocare a calcio? No, no, questo è vero. E possiamo vedere solo gente correre? Gli esterni sono difensori. Ma quale 3-5-2? 5-3-2. 8-1-1. Questo, guarda, mi ricorda Capello. Capello che aveva con me, insomma, cavallo di battaglia nelle scene, il fatto che diceva 3-5-2, 9-1, gioca tutti col 9-1. Sì. No, ma io non l'ho mai detto, Pier, perché no, però è vero, in molti casi è vero. Ha dignità la corsa, tutto, ha dignità vincere difendendosi bene e ripartendo, ma non facciamo manco più questo. Il Real ha tentato di farlo, il Barcellona l'ha scassato, no? Sì. Però il Real ha tentato di farlo. Io devo dire, veramente i giocatori sembravano impotenti, ma volevano farlo, volevano andare avanti. In Italia non si fa manco più questo, si ha paura a sbagliare a fare un passaggio perché si ha paura a fare un dribbling. Però Massimo, perché mi fa riflettere il fatto che i due allenatori italiani di punta siano stati, Capello e appunto Ancelotti, siano stati mandati via sostanzialmente dal Real Madrid, certo, perché ritenuti difensivisti. Sì, anche se poi tutti e due i casi mi sembrano... E allora però si tengano Benitez che mette in campo una squadra improponibile. Secondo me, allora io sono d'accordo culturalmente con quello che dice Massimo. Credo che oggi, ribadisco, il calcio divertente in Italia lo devi trovare da altre parti. Lo trovi a Napoli, lo trovi a Firenze, lo trovi a Sassuolo, lo trovi secondo me anche con la Roma, lo trovi col Torino. Però Massimo ha ragione quando dice devi trovarlo con le grandi squadre, no, cioè no, quelle che metti in vetrina. Certo. Chi competi? Se lo fa a Sassuolo, io di Francesco gli darei qualsiasi cosa. Certo. Ma con chi competi se lo fa a Sassuolo? No, è vero. Anche la Fiorentina, che è straordinaria, ha fatto partite bellissime da vedere, che sembrava davvero il Barcellona, e però fa l'Europa League. No, certo. L'Empoli gioca un calcio discreto, insomma. Sì. No, sono d'accordo, però penso che qui ci siano una serie di contingenze. L'Inter che ha trovato un suo equilibrio attraverso un gioco non spettacolare, ma che intanto funziona, e quindi francamente adesso prendersela con Mancini mi sembrerebbe, insomma, assurdo. Anzi, gli facciamo i complimenti perché domenica ha messo tre dietro Icardi, che sono tre giocatori di grande qualità, di grande tecnica. E qualcosina abbiamo visto. Mancini ha fatto una scelta, secondo me, molto precisa e fino a questo momento assolutamente vincente, che è quella, diciamo, di abdicare alla qualità dei centrocampisti e di lasciare però ai 3/4 giocatori offensivi tutto il compito della... cioè lui ha impacchettato la difesa benissimo, ha messo un centrocampo di grandi faticatori, guerrieri, maratoneti, e fino a questo momento il gioco gli sta andando alla grande. Poi stasera però, Massimo, avremo anche una conferma che mi fa tremare, perché abbiamo una delle contendenti al campionato italiano contro la squadra che citavi tu prima, cioè il Barcellona. Io ho paura vera per la Roma questa sera, non di una sconfitta, ma di qualcosa di più pesante. Ma se la Roma si difende bene e riparte, può creare problemi al Barcellona. È chiaro che se Neymar e Suarez giocano con quella tecnica, e allora sì, quella intensità, cioè Suarez ha corso più dei centrocampisti del Real domenica, cioè è stato pazzesco quanto ha corso, e poi con quale qualità ha fatto le cose importanti nella metà campo avversaria. Questo è poi la differenza, perché ci sono giocatori in Italia che non gli puoi chiedere di rincorrere il destino, perché poi non ce la fanno a giocare con qualità davanti. Ma ti piace, non voglio fare nomi, ma ne ho uno su tutti, secondo me Icardi, se corre tanto non gioca bene. Sì, Icardi è ancora abbastanza estraneo all'Inter. Massimo, grazie, andiamo con la borsa. Ciao, ascolta, grazie davvero. Questa cosa è fantastica, cioè adesso lo diciamo, so che spesso ci sente lo zio Bergomi, gli addetti ai lavori, come dicevano quelli bravi, ci sentono tutti o quasi, quando sono ovviamente in condizioni di sentirci, e l'invito è chiamateci, ecco, vedi, anche De Luca lo fa, come si dice in napoletano, chiamateci. Ma chiamate, come si dice in napoletano, chiamateci. Vabbè, allora, e allora scusate, anche, chiamateci. Anche lo zio ci dicono che l'inno del Bari è bellissimo ed è bella la parte finale, poi cantarlo ai tifosi ovviamente diventa stupendo. Lo zio ci sente. No, chiamate, chiamate. Chiamate. Oppure fate WhatsApp, no? No, aveva WhatsApp, no, chiamate. Chiamate, chiamate. Parliamo, 800. Chiamateci. Chiamateci. 800 24 0024. Mi raccomando, è dopo Baita Vecchio, il manuale contro gli ultra e il manuale dell'apprefettato, cioè il calciatore. So che sei impazziente. Sì, lo so, lo so. Resisto, la Borz. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, l'inno del Bari l'abbiamo sentito. Cioè, beh, dice sentiamo il che... finale però. Dopo sentiamo, facciamo caricare il finale. Intanto abbiamo un ascoltatore da Bari. Chi Alessandro. È? Ciao Ale. Ciao. È un piacere parlare con voi. Come stai? Insegniamo un po' di barese per tutti, dai, dici due o tre cose. Capiti male perché io sono leccese. Sei leccese? E allora... Diciamo Santoronzo. Santoronzo, certo. Santoronzo, il pasticciotto. Lo rustico. L'usule, l'umare. L'umare e l'Oiento. L'Oiento, il Salento, è altra terra magica. Però parla del Bari o del Lecce? No, io sono del Lecce. Ah, quindi... Parliamo del Lecce o del Bari? Sì. Di che parliamo? A me del Lecce c'è poco da dire, diciamo che sono 4 anni che siamo impelagati in Lega Pro. Giallorussi. Ma ti manca il pasticciotto di Santoronzo? Beh no, perché poi il weekend comunque torno spesso a Lecce, quindi recupero. Il pasticciotto, diciamo, è uno dei dolci più buoni al mondo. Cioè è disponibile in creme e amarena, no? Essenzialmente se ti piace la frolla. Il pasticciotto classico è solo crema. Poi c'è anche quello lo fanno pure al cioccolato. Vabbè, no, sono contrario alle contaminazioni. Facciamo poi uno speciale. Io sono tradizionale. Diciamo no al pasticciotto al cioccolato. No al pasticciotto Obama. Ecco. Cosa ci volevi Obama dire oltre a farci venire fame? Cioè, per la verità la colpa è di Pardo, ma comunque. Ma io ho letto ieri l'articolo di Massimo Mauro su Repubblica e ho sentito l'intervento e volevo segnalare che a proposito appunto della qualità del gioco nella Serie A c'è un problema secondo me di invece proprio di utenti, cioè del pubblico, perché quando vedo le partite in Napoli, io poi sono tifoso del Napoli quindi qui è un gran casino, però quando vedo le partite in Napoli vedo spesso delle partite in cui c'è davvero non il 9-1 che dice Capello ma il 10-0, 10 difensori a coprire contro il Napoli il Napoli, certo. Però ecco, il Napoli è un avamposto. Oggi Napoli e Fiorentina, dai, sono le due squadre che giocano meglio in Italia, secondo me, in generale. Poi, e che è anche esteticamente bello guardare. Anche la Roma, quando è in giornata, gioca molto bene, secondo me. Però, insomma, sono le due squadre che hanno più continuità estetica, sì, diciamo. Sì. Però c'è un problema appunto delle squadre medio-piccole nell'affrontare queste grandi squadre. E ha un atteggiamento eccessivamente rinunciatario. Io capisco storicamente così, storicamente così, ci sono eccezioni, quella che ha citato prima Pierluigi, il Sassuolo che insomma è lì, ma anche il Genoa, come sottolinea qualcuno. Vedi, il Sassuolo è lì adesso. È una squadra bella da guardare nella sua, se vuoi, atipicità, cioè, insomma. Non fanno così. La forza del Sassuolo in questi anni è stata, oltre che vabbè, la società che comunque quando c'è da investire, come ha fatto 2 anni fa, che ha fatto una vera e propria rivoluzione, certo. A gennaio l'ha fatto, ma è avere un allenatore che non gli ha mai dato una mentalità da provinciale. Cioè, il Sassuolo ha sempre giocato prendendo anche i famosi 7-0 dall'Inter, cioè rischiando anche delle brutte figure, ma giocando sempre a pallone in un certo modo, e poi grazie a una buona qualità tecnica che oggettivamente il Sassuolo ha, riesce a spingersi in posizioni di classifica francamente, certo, clamorose. Mi fai salutare, no? Gianluca Papalesta. È chiaro. Ciao Gianluca, grazie. Buonasera a tutti quanti. Ciao. Gianluca Paparessa, che lo sappiamo, è leccese, però vive anche lui a Bari. No, sto scherzando. sto scherzando. No, Bari e Lecce per rivalità, ma devo dire che sono due bellissime città della nostra meravigliosa regione, quindi vanno bene. Senti, dici una frase in barese, per esempio, vieni qua, si dice Vina Deu. Ma tu sei un amico speciale che ti, sì, ti parla in barese. Dici qualcosa in barese, dai il benvenuto in barese. Adesso poi sei il presidente, quindi adesso poi riprendiamo un'istituzionalità, però sai che qui siamo anche un po' cazzari, quindi dai il benvenuto cazzetta in barese alle ore 18, che c'è questa grande giornata per Bari, penso, no? Dico, venito stadio e dove sì, ecco. Beh, esatto, chiarissimo. Beh, Milan e Inter, no, diceva prima Pierluigi. No, prima fammi parlare un attimo del Bari, perché siete a caccia, meno 4 dall'irresistibile Cagliari, secondo in classifica col Crotone. Per ora non male. Il campionato, siamo solo a un terzo del campionato, è chiaro che è importante essere lì nei primi posti, cercare di giocarsi tutte le partite al meglio, anche perché veramente è una piazza che ci sostiene. È difficile spiegare alla gente che siamo in Serie B quando vedono oltre una media di oltre 22-25 mila spettatori ogni partita, quindi con 11 mila più abbonati, con un tipo che ci segue anche nelle nostre trasferte, anzi molte volte ci sono problemi perché gli impianti non sono capienti per poter ospitare tutti i nostri tifosi, quindi diciamo che la tifoseria è già da Serie A, ampiamente da Serie A. Dobbiamo cercare di costruire, stiamo facendo, una squadra che possa dare giuste soddisfazioni a tutti i posti. Sì, ma infatti questo ragionamento che poi tante volte rischia di essere scambiato e portare a delle polemiche, e quando si dice che Bari è una grande piazza è chiaro che nel calcio di oggi questa cosa fa la differenza, perché è inevitabile che il Bari abbia una forza di attrazione anche nei confronti degli sponsor, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista della biglietteria e dei diritti di un certo tipo, quindi questo non toglie nulla a quelle realtà, anzi dà ancora maggior valore a chi riesce a ottenere risultati in piazze più piccole, perché vuol dire che è ancora più difficile. Però è abbastanza normale, secondo me, nel mondo di oggi, nella società di oggi, che una grande città come Bari possa aspirare a avere una squadra competitiva. Non c'è niente di male. Vabbè, è una legge di mercato. È un ragionamento anche normale. Cioè, più di 30 anni fa, in un altro sport, Peterson e Bianchini dicevano: il basket non può fare a meno delle metropoli. È più facile trovare degli sponsor per Bari che per una città più piccola. Come è più facile trovarli per Madrid, per Real Madrid, che per il Bari. Non a caso Inter e Milan hanno scelto di venire qui a Bari a giocare, proprio perché comunque c'è la possibilità di richiamare maggiore attenzione. L'impianto è anche un impianto sovradimensionato, perché abbiamo una capienza enorme, quindi credo che davvero ci siano i presupposti per cercare di fare il meglio possibile. Sì. Senti, su chi fate la corsa oggi? Cioè, chi vi fa più paura, l'Inter o il Milan? Ma noi non abbiamo paura di nessuno. No, però Pierluigi prima ha detto una cosa, importante. Non è banale, anche su 45 minuti lo sappiamo, amichevole lo sappiamo, però non è banale il derby di questa sera, perché soprattutto per il Milan in questo momento è anche qualcosa a cui stare attento. Sì, sicuramente, soprattutto visto che ci sono stati già diversi altri derby in questa stagione, ed è un momento, per quanto infrasettimanale, per quanto le due squadre non siano con tutti i titolari, ma comunque è un motivo di soddisfazione per i tifosi primeggiare in questa, sera cittadina. Un'ultima cosa, Gianluca, ti faccio una domanda da arbitro: cosa avresti fatto a Bologna sabato sera? Più che io, penso il regolamento mi sembra che parlasse abbastanza chiaro. C'erano delle zone che dove non rimbalzava, però poi lì era lasciato all'opinione dell'arbitro, estremamente soggettivo. Forse se avesse fatto delle prove anche nelle zone dove in effetti le portanghere erano talmente tante che non la palla non rimbalzava, avrebbe sospeso la partita, però non voglio entrare a un altro ruolo, ormai l'arbitraggio per me è un ricordo passato, quindi no, è solo una questione tecnica. Ma ti manca, questa cosa? Ti manca arbitrare? No, anche perché grazie a Dio ho avuto la fortuna di essere talmente così impegnato per la squadra della mia città, la squadra per cui ho sempre citato, la cosa mi inorgoglisce e non mi fa sentire a mancanza di nulla. E felice del nuovo ruolo. Grazie Gianluca, in bocca al lupo per stasera. Ciao, bocca al lupo. Bocca al lupo. Bocca al lupo per tutto. È chiaro che Bar merita tantissimo affetto. Poi non si dice Beri, sai che c'è questa grandissima, questo grandissimo equivoco che la Lino Banfi, che è un grandissimo artista, ha creato questa cosa Beri. Invece no, la Bar. Bar. Con la Bar. Così. Che ri non si sentono. Non si sente. Sempre dalla stessa città. Oggi siamo Chamonix. Oggi siamo baresi. Siamo tutti baresi come Mario. Ma Beppe o Franco? No, faceva schifo, dai. Ti prego. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. Buongiorno a tutti. Sì. Eccoci. Ci siamo detti buongiorno. Procediamo. Prego. Procediamo. Allora, ho appena sentito il presidente. Il ben amato presidente. Che ancora non ci chiarisce le idee sulla vera la proprietà del Bari, però soprassediamo, non è oggi l'argomento per parlare. Volevo far luce su questo triangolare di Bari nel martedì anonimo di novembre, le motivazioni vere, perché effettivamente, francamente, non capisco se ogni volta che bisogna far cassa bisogna invitare squadre come Inter, che per fortuna accettano, e Milan a Bari, e invece ci sia un discorso più serio sul calcio, cioè un panorama differente, cioè il Bari, giocarlo, mi che il Bari sia secondo in classifica, posso dirti una cosa, cioè Milan e Inter, anche se no, di martedì, che sulla questione commerciale del Bari sono state fatte mille polemiche, io non ne so nulla e quindi non ci rientro, però ribadisco il discorso fatto prima, cioè se il Bari ha la forza di invitare Inter e Milan è perché ha uno stadio grande, che è lo stesso motivo per cui tante volte abbiamo visto i tornei estivi fatti a Bari, no? Quindi uno stadio di una certa dimensione con determinati requisiti e una piazza di un certo tipo, questo è un elemento di forza. Poi posso capire che chiaramente al tifoso del Bari non interessa vincere il trofeo di oggi, ma vincere la battaglia per la promozione. Se fossi però è una cosa parti, utile, io andrei a vederla, anch'io andrei a vederla, e comunque insomma mi sembra una cosa bella, mi sembra una cosa bella, e che in qualche modo ci racconta la capacità. Noi siamo sempre un po' sospesi fra la giusta, bellissima celebrazione di chi è piccolo e ce la fa, e però anche l'affetto per delle grandi piazze che soffrono. Bari, anche Lecce soffre perché che addirittura è in Lega Pro. Sono piazze abituate a un certo tipo di scenario che dal punto di vista commerciale, in un calcio che sta diventando sempre più appunto business driven, come dite voi? Come dicono a Bari? Business driven, cioè guidato dal business, che ci piaccia o no, perché è così. Sì, perché sì. È chiaro che se devi andare, io ci vedo un valore aggiunto nel fatto di, poi non so quali logiche sottenda l'ascoltatore, però io ci trovo, vedo un valore aggiunto nel fatto di giocare un triangolare come questo. Non c'era niente di male. Volevo dirvi che a proposito di gente che ci ascolta sempre, lo zio Bergomi prima ci ha salutato e poi ci dice Ciceri e Tria, pasta fatta in casa nel Salento. Dunque anche lo zio Bergomi con la sua alimentazione equilibrata, col suo fisico scultoreo, insomma, ci partecipa al dibattito enogastronomico. Allo zio Bercomi e a tutti gli altri facciamo sentire informazioni sul traffico. Torniamo subito. Il traffico dei ciceri. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta convocati. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono 3, e sono 3, Altobelli, terzo gol di Altobelli, 9 minuti alla fine, 3-0, è il 36esimo minuto. Non so quante volte possa aver sentito questa roba, Spillo Altobelli, ciao Spillo! Buon pomeriggio a tutti, mi come sembra di averla sentita ancora quella cronaca. Non è la prima volta, eh. Come va? No. Come va? Come stai? Tutto bene, tutto senti bene, la spesso nonostante... Nino, come sta? A Sonnino si sta da bene, si sta da Dio, si vive bene, c'è tranquillità, c'è sicurezza e c'è amicizia. Senti, scusa, sai tutto. Che io cazzeggio, ma il tuo rapporto con Ponza, visto insomma che non è lontano. No, ma Ponza è una bellissima isola dove non solo quelli di Sonnino, Latina, Terracina, San Felice, Sabaudia, vanno tutti lì. Bellissimo posto che consiglio a tutti. Mamma mia, pure noi di Cologno Monzese. Noi di Cologno Monzese, di Milano Nord. Salutiamo gli amici del Ponza Calcio. Assolutamente. Senti, invece a proposito di Bomber... Insigne Higuain leggevo oggi 17, meglio di Maradona Careca 16, alla stessa ora del campionato dopo lo stesso numero di partite. Ora non è il caso di fare nessun confronto, non è il caso. Qualcuno mi denuncia o mi picchia. Ho lasciato Maradona settimana scorsa in Marocco, siamo stati per una partita. Per favore, non fate questi paragoni, non commettete questi errori. Come sta Diego? Quello è un peccato. Cioè, l'ho visto un po' ingrassato e poi adesso ho letto che lo hanno operato, adesso sta bene, tutto bene. Alla grande. Senti, ma Icardi, che insomma, cioè tu all'Inter ci credi, nel senso che uno dei principali argomenti a favore di un possibile scudetto dell'Inter è anche uno dei principali motivi per cui fino a questo momento non ha convinto, cioè è una squadra che segna abbastanza poco, con Icardi che ancora non è esploso, quindi l'Inter crescerà? Però ecco, c'è il rovescio della medaglia, no? Cioè, nonostante le cose non funzionano, è in testa alla classifica, segna poco, ma non incassa, incassa anche poche reti, tra 6, 7 su 12 partite. Quindi devo dire che quando miglioreranno le cose magari andranno ancora meglio. Certo, alla fine io penso che vince sempre la squadra che gioca bene e meglio, però abbiamo visto avere una buona difesa, non prendere gol, ti fa stare in testa. Sì, scusami se insisto con i paragoni che ti fanno arrabbiare. Quello è Evaristo, scusate se insisto, lo dice Altobelli. Quello è Beccalossi. Evaristo, scusate se insisto. Però c'è un giocatore che mi ricorda un po' Altobelli in questo campionato. Sai chi è? No. Kalinic. Ah. Ti offendi? Nessuno. No, ma non mi offendo perché io non faccio mai paragoni con nessuno. Cioè, magari è anche più bravo di me. Devo dire che è stata una grande sorpresa. Un grande bomber, l'avevo visto a Milano segnare quei due gol all'Inter, poi l'ho visto in altre partite, è veramente un buon giocatore, però veramente sono tempi diversi e i paragoni, sì, i paragoni epocali sono contrari anch'io, però, è solo un gioco, è un buon giocatore. Senti, un buon attaccante. Ti posso chiedere una cosa che non c'entra niente, tu hai lavorato per la Jazeera, non so, ci lavori ancora, insomma sei, sì, cittadino del mondo. Come la vedi tutta questa situazione? Cittadino del mondo e persona che lavora con tante persone musulmane, insomma, che poi sono quelle che sono anche protagoniste nel calcio di oggi. Hai paura? Allora, io sono sempre dal 1980 che frequento prima la Tunisia e poi negli ultimi 10 anni vado in Qatar a Doha per Al Jazeera, adesso Bain. Ho conosciuto tutti i tipi di persone, musulmani, per me tutta gente seria e per bene. Non è detto che se uno è musulmano è un terrorista. Certo. Quindi io sarei bene attento a fare questi paragoni. Certo, da tutte le parti c'è gente buona e gente purtroppo non buona, come in Italia e come tutti gli altri posti. Io rispetto tutti e soprattutto rispetto anche i morti. No, ma poi in questo momento ogni spunto è buono sull'argomento, anche per fare delle polemiche piuttosto pretestuose. Sì, non bisogna sbagliare a dire musulmano terrorista. No. Questo è un ragionamento che è su cultura, secondo me. Però in questo momento, per esempio, hai sentito, Pierre, della polemica su Benzema, no? C'è un eurodeputata francese che dice ha sputato durante la Marsigliese prima del classico, il che non è vero. Ma non è vero, ha detto fuori dalla nazionale francese, sai, in questo momento si cavalcano anche cose di questo tipo. È vero, ma io per Benzema avevo letto altro. Sì, no? c'è anche altro. Allora bisogna, è un buon giocatore, ma mettiti a posto. Dai, bravo. No. Sì, anche Berardi deve mettersi a posto, cioè, non a quei livelli, ovviamente fa delle altre cose, però per un attaccante essere il giocatore che ha preso più cartellini in Serie A. Ma chi porteresti? A parte quello, ma Benzema, Ricatti, adesso anche questo... quando lo sputo, mette da posto, dai. Ma chi porteresti all'Europeo? Facci i tuoi 5 attaccanti per l'Europeo. Manca ancora un po', però gli attaccanti sono quelli che Conte continua a chiamare. Ecco, ultimamente non chiama Insigne perché qualche mese fa non ha giocato con la nazionale, poi la domenica ha giocato con il Napoli, quindi Conte tiene conto anche a questo, a chi vuole bene alla nazionale, però Insigne deve essere uno deve far parte della spedizione. Non può rimanere a casa un giocatore come Messi, quello è il metodo forza. Conte per educare tutti, per far capire. Anche Berardi, anche Berardi è un buon giocatore, ne abbiamo tanti. Grazie Spillo, bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, dove sei adesso? Geolocalizzati, dove sei? Sonnino. Sì, non scherziamo. Tu sei Glocal. Sai che il 28 compio 60. Lo so. E da stasera cominciano i festeggiamenti. Da stasera, sì, facciamo. Io ho fatto un tweet, ho sbagliato giorno. Già ti ho fatto gli auguri su Twitter, se mi trovi. Grazie. Perché mi piace arrivare in anticipo. Una partita con tutti i miei vecchi amici del Sonnino, dicevamo un po' della Latina, una mista e poi. Ma facciamo una cosa a Ponza. Facciamo una cosa breve a Ponza, un posto a caso. Va bene, adesso poi organizziamo. Siete tutti convocati, amici all'ascolto, per un match amichevole che si svolgerà a Ponza. Vedrete anche De Luca che parlerà in napoletano. Di una frase in napoletano, una cosa. Maro. Facimma Ambressi che te dimmi. OGR. Oggi come sono andato? A tra pochissimo. Medio. Tutti convocati. Tutti convocati. 800240024. Beh, la notizia, c'è una breaking news, Tagopina. Licenziato Favaretto, ha preso Favarin a Venezia. Capito. Favarin è più sbarazzino, anche più legato al territorio. Favarin. Favaretto, però mi sa che è Veneto. Mi sa che se non è Zuppa, è Pan Bagnato. È Favaretto, dicevano gli anziani. Bocca al lupo a Favarin, ovviamente. Bocca al lupo a Venezia. Come sapete, noi siamo piuttosto cazzari, cioè il livello abbastanza elevato, ma non sempre, qualche volta quasi sempre deroghiamo e parliamo di argomenti un po' diversi. Presenti tu il prossimo ospite. Sì, lo presento, fra l'altro in qualche modo si lega al discorso che ho appena fatto, perché oggi su Avvenire c'era una bellissima intervista, un bellissimo ritratto del signor Altobelli. C'è il professor Castellani, buongiorno. Massimiliano Castellani. Buongiorno. Come va? Il professore? Sì, ma sai, siamo qui, insomma, cosa niente, sì. Tutto gratis. una decenza per tutti, più che una docente. Esatto. Senti, tu vuoi dire qualcos'altro? Abbiamo sentito un Altobelli a 360 gradi su tutto. Tu oggi su Avvenire, l'hai intervistato, ne hai parlato lungamente. Che sensazione ti lascia questo attaccante, quest'uomo che ha fatto tantissimo, che continua a vivere a Sonnino, però poi lavora con Al Jazeera, che è stato uno dei più grandi attaccanti italiani, credo 298 gol in carriera, se non sbaglio. Sì. Ma mi lascia la sensazione è quella di un uomo molto appagato, uno di quelli che è felice con se stesso perché sa di aver fatto una bella carriera, è diventato campione del mondo, nell'Inter ha dato tutto, in un Inter che non era certo quella milionaria di adesso con 34 stranieri, e quindi diciamo che è un uomo che ha raggiunto anche una certa saggezza, no? Nel senso che è sempre stato visto come uno poco loquace, non di grandissima profondità di pensiero, invece l'ho trovato estremamente maturo, un uomo molto molto convinto soprattutto delle sue qualità tecniche, cioè probabilmente oggi lui non si scambierebbe nemmeno con Icardi, e credo che questa sia una cosa non a caso, e tra l'altro poi lui batte molto sul fatto che il suo cognome è l'anagramma di Balotelli, esatto. Sul quale, come hai visto, dà un giudizio abbastanza tagliente. Certo, sì. Senti, non si scambia neanche con Kalinic, come abbiamo provato, esatto. Provato a scoprire prima. Senti, tu hai fatto questo libro che è uscito ormai da un paio di mesi, che è Sla, il male oscuro del pallone, che è un libro tosto perché parla di numeri e di storie, e, insomma, questa connessione, esatto, tra Sla, calcio e farmacie dei calciatori. Credo che il rapporto sia 6.5, 6 volte, 7 volte il rapporto di incidenza di questa malattia. Siamo su 7-8 volte, ma sul dato però epidemiologico, quello che porta avanti con grandissima coraggio, con grandissima generosità il gruppo di lavoro del dottor Vanacore all'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Però se andate a fare invece dei calcoli un pochino più mirati, vi accorgete che su una famosa inchiesta che viene portata avanti dal giudice Guariniello, su 41.000 calciatori censiti, 41.000 professionisti, dal 70 a oggi si sono riscontrati almeno 60 casi di SLA. Quindi diciamo che l'incidenza è molto più alta, arriverebbe addirittura sui 20-25 volte superiore a quella che è la media universale. Fatto premesso che noi in questo libro lo chiamo il male oscuro del pallone, ma comunque ricordo sempre che esistono 6.000 malati in Italia di questa malattia, certo, che non sono tutti stati dei Borgonovo. E sono, sì, e sono chiaramente anche appunto meno famosi, sì, e quindi meno assistiti. Ma chiaramente, quanto incide, perché sono state dette un sacco di cose, no? Quanto incide il gioco del calcio, i contrasti, i famosi poi, colpi di testa. Ci sono mille cose, colpi di testa, ma c'è anche chi dice i pesticidi, i diserbanti. E quanto incide invece quello che hanno consapevolmente o inconsapevolmente preso? Guarda, se questa domanda la fate al gruppo di ricerca che fu anni fa assoldato dalla FIGC, vi dice che assolutamente il calcio è esente da ogni tipo di responsabilità come e di correlazione. In realtà invece chi sta indagando in maniera approfondita, quotidiana, questo a livello scientifico, dice che c'è un'incidenza assolutamente che è data non soltanto dal dato epidemiologico, ma da questi ultimi studi che vengono fatti appunto sui diserbanti e pesticidi e anche le acque inquinate che sono state utilizzate per l'irrigazione dei campi di calcio. A caso io vi porto soltanto un elemento. Nell'Ottocento questa malattia veniva definita il morbo di Charcot, che era un morbo che attecchiva sulla popolazione contadina. Io definisco i calciatori, credo, dei lavoratori privilegiati della terra, e quindi questa connessione ha anche diciamo una valenza di tipo storico. Certo. Però in altri sport che pure si giocano sul prato non situazione è diversa. Innanzitutto ci ricordiamo che questo morbo si chiama anche morbo di Gehrig, che deriva appunto dal grande campione di baseball, sì, americano Lou Gehrig, e all'epoca si giocava solo su manterboso. Sì. È stato riscontrato proprio nel football americano, finché si è giocato solo su manterboso e non si è passato al sintetico. E poi appunto c'è, non a caso infatti non si trovano dei malati di SLA nel ciclismo oppure in altri sport come il basket, la pallavolo, insomma sono degli dati molto sporadici. Nel calcio invece no, c'è questa grandissima incidenza. Senti, ti chiedo quella cosa che ho appena chiesto ad Altobelli. Tu chiaramente lavori per Avvenire, che è un giornale di forte connotazione cattolica, stiamo per, sì, vivere il giubileo. Ispirazione cattolica. Ecco, esatto, ispirazione cattolica, e poi ti occupi di calcio, quindi insomma tutta una serie di mondi che sono in questi giorni un po' sotto pressione. Che lettura dai di questo casino enorme che c'è attorno alle nostre teste? Ma io credo che ci sia più che una guerra di religione, ci sia assolutamente una guerra legata ai petrodollari e ai grandi centri di potere mondiale, quindi diffido moltissimo di chi parla di nuova crociata. Ho altresì una grandissima considerazione, rispetto e grande fiducia in Papa Francesco, che è un uomo che in questo momento è il vero leader mondiale sulla terra, e tra l'altro, visto che parlavamo di giubileo, ci sarà una parte del giubileo dedicato allo sport, credo che Papa Francesco se la giochi in un derby ideale con Papa Wojtyla come Papa dello sport, perché sapete benissimo di quanto lui sia vicino al mondo del calcio, a San Lorenzo Dal Mare e a tutti gli sportivi che non continua a invitare, a avere udienze private, sì, non ultima una grandissima affinità che sta crescendo sempre di più con Diego Armando Maradona. Sì, sì. Beh, io credo, non sono un esperto di teologia, credo che dal punto di vista della, se vuoi, della popolarità, dell'umanità, siano i due papi certamente, no, più amati. Credo che dal punto di vista, tra virgolette, politico e rivoluzionario della teologia sia un papa anche per certi versi anche ancora più, tra virgolette, progressista, no, rispetto a Wojtyla. Quindi diciamo che è un papa che ha detto subito di arrivare dalla fine del mondo, dall'ultima parte del lembo di mondo, e soprattutto è un papa che è stato prima di tutto un prete di strada, e quindi lui predilige chiaramente tutta quella che riguarda diciamo l'aspetto popolare. Certo. E per questo credo che anche molti atei, molte persone assolutamente distanti dalla Chiesa si stanno avvicinando, perché valutano prima di tutto l'uomo. Sì, sì. Alessandro Massimiliano, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie, ricordiamo, Castellani. SLA, lo scudo del calcio, e insomma si può ovviamente prendere e farsi un'idea un pochino più precisa di questo, di questa cosa terribile, che però insomma, come tutte le cose terribili, va combattuta. È capita anche. È capita. De Luca, cos'è quella faccia? Dai, vogliamo fare ascoltatori. Michele Davari e Stefano Domenico. Sì, però prima voglio farti ascoltare te, perché posso. Sì, vai. Ti piace? Vai, mentre altra notizia del giorno, facciamo anche della cronaca ogni tanto, è che la commissione etica della FIFA ha chiesto per l'incorruttibile Platini la radiazione. Poi vediamo cosa verrà deciso, però questa è, sì, diciamo, la richiesta del posso dire una cosa impopolare dal, se non sbaglio, dal punto di vista tecnico la situazione di Platini è peggiore di quella di Blatter. Cioè, a noi Blatter chiaramente non è simpatico, cioè, beh, mille cose che non ci piacciono, il sistema sicuramente avrà saputo, è impossibile che non sapesse, però non è che a Blatter, da quello che mi risulta, viene contestato il fatto di aver preso fisicamente per lui dei fondi. Ma no? Comunque, aspettiamo, ovviamente. Anche questo mi sembra un po' una storia politica. Cioè, Blatter ormai è a fine corsa, ormai è tra angeli e demoni, come abbiamo scoperto. E mentre Platini è chiaro che verrebbe totalmente bruciato, ma non solo da una radiazione, che è un gesto, secondo me, una richiesta quasi simbolica, ma verrebbe comunque bruciato anche da una squalifica di un anno, non potrebbe partecipare alle elezioni e sarebbe più improponibile a quel punto, certo, come personaggio della politica sportiva. Invece Tavecchio, ci sono due cose. Vai. Una, la sua ricetta contro gli ultra. Perché ridi? La ricetta, cosa pensa Tavecchio di come contrastare l'ultra? Se avessimo una barriera psicologica di 1,10 m, forse noi faremmo meno invasione di campo, perché la psicologia dell'invasore del campo, se ha una rete la moltiplica, se non è la rete deve fare i conti con la sua coscienza per saltare al di là del metro. Quando vedete in giro per la strada un cane randagio, non vi guarda neanche. Quando passate davanti a una casetta con una recinzione, c'è un cagnolino piccolino, si ammazza la rete per farvi del male. Quindi è una questione di rete. Sì. Che cosa vuoi da me? Che cosa devo dire? Io ti dico proprio sinceramente che provo per questo presidente in certi momenti molto imbarazzo, proprio perché secondo me c'è un problema fondamentale, che è la comunicazione. Poi io ti devo dire la verità, a me non so di essere impopolare, a me non è una presidenza che dal punto di vista delle cose pratiche, certo, mi faccia particolarmente schifo. Cioè, secondo me le rose a 25 sono può stare, la scelta di Conte, oltretutto pagata dallo sponsor, una scelta che secondo me sarà molto molto buona, e francamente devo anche registrare che al di là, dopo quella prima gaffe clamorosa, c'è tutta una serie di tranelli. Non è una gaffe, intendiamolo. Quest'ultima non è una gaffe, però quest'ultima ci racconta la difficoltà di comunicazione, lo dico proprio con rispetto, la difficoltà di comunicazione di un uomo di un altro tempo, di un'altra storia, che certamente non sembra inadeguato nella parte della comunicazione. Poi però per il resto, se penso che insomma gli hanno fatto di tutto dal punto di vista dei tranelli, dei trabocchetti, questo è un secondo elemento, però è ovvio che poi io non ci ho capito niente, ma che è sta roba del cagnolino? Sinceramente non l'ho capito nemmeno. Lui dice che se c'è una barriera, cioè, diventi più aggressivo e quindi cerchi di superarla, se invece non metti questa barriera. Però non l'ha detto così, cioè non ha detto questa cosa qui. Lo so, cioè, lo stadio senza barriere, paradossalmente controllato, può essere un deterrente. Questa frase, ha detto il cagnolino. Quindi questo, e poi io ribadisco, tutta una serie di gaffe, al di là di tipo Ba, che è una cosa fuori dal mondo, ma tutta una sono serie state di un po' gaffe, estorte, dici tu, questo è vero. No, ma soprattutto appartengono a un uomo di un altro tempo. Cioè, la parola handicappati è una parola che 20 anni fa o 30 anni fa veniva usata a cuor leggero. Oggi sappiamo che non si dice handicappati, si dice disabili, addirittura si dice diversamente abili, perché già disabili quindi da questo punto di vista, e lo dico da persona progressista, io sono strafelice, cioè credo che il mondo migliori quando noi ci poniamo tutta una serie di problemi su come non offendere nessuno, quindi è giusto, è bello, è importante dire diversamente abili piuttosto che disabili o addirittura handicappati, però ecco, molte delle sue gaffe secondo me nascono proprio dal fatto che appartiene a un'altra epoca, in quell'epoca lì, al netto delle estorsioni che comunque, come ti dicevo l'altro giorno, mi hanno raccontato i vecchi milanesi con i quali parlo, mi hanno raccontato che 20 anni fa, 30 anni fa a Milano si diceva non si diceva neri ma si diceva negri, ma senza voler offendere offendere nessuno, era il modo di dire che c'era a Milano o nel resto d'Italia, quindi è assolutamente censurabile, condannabile, diciamo di colore, diciamo neri, sì. E, però ecco, secondo me molte delle gaffe nascono proprio da questo. Che non è una scusante, anche... per carità. No, però è cioè, giusto per capire, per spiegare, ma c'è anche un'altra spiegazione, cioè il manuale della doccia per il perfetto calciatore. In questo paese pochi si occupano dell'efficientamento energetico. Vi faccio un esempio della mia piccola società di calcio con altri amici. Le docce, acqua calda, un ragazzino va sotto la doccia e sta sotto un quarto d'ora. Un quarto d'ora minimo! Abbiamo effettuato un sistema preparato con un minuto di dilavamento iniziale, un minuto di insaponamento e due minuti di dilavamento finale, poi la cosa si ferma. Per fare l'acqua calda, io non avete un'idea di che cosa ci vuole per fare l'acqua calda. Io il lavamento. Ma c'era stato l'efficientamento, ecco, il lavamento iniziale. Però ecco, questo spiega tutto. E ripeto, non giustifica, perché poi tutti noi, da questo lo diciamo dal momento della sua elezione, noi ci siamo pubblicamente spesi dicendo che non avremmo votato per Tavecchio. No, ma per questo motivo qui. Guarda, io non credo. Uno che dice così è involontariamente simpatico. Cioè, Non credo. Lo dico sinceramente, non credo che siamo di fronte a un uomo perfido, malvagio, razzista. Io penso siamo di fronte a un uomo che ha degli enormi problemi di comunicazione. E chiaramente sarebbe auspicabile avere alla guida, siccome è un ruolo importante, è un ruolo anche di visibilità dal punto di vista della mediatico. Comunicazione, insomma, magari non dire lavamento, a dire lavaggio, capito? Evitare. Poi in questi casi la forma diventa sostanza. Però ti ripeto, poi mi hanno dato. Sì. Mi ha dato fastidio, cioè perché mi insospettisce poi il fatto che ci siano stati una serie di trabocchetti, alcuni dei quali abbastanza clamorosi, andare lì fingendosi, questo fa parte del capitolo dell'estorsione. Sai quando eravamo piccoli che c'era anche chi diceva a questo porta sfiga e tutti a fare gli scongiuri, era una cosa molto comune, chissà chi porta sfiga. Mamma mia, che giornata. Stamattina fuori il vico ho intravisto quell'amico che mi guarda. Vabbè, noi ce la giocheremo il campionato ancora lungo, ci proveremo fino alla fine e cercheremo di dare il massimo per arrivare più in alto possibile. E non è vero, e non è vero, e non è vero, ma ma quella parola lì la possiamo pronunciare o è meglio evitare, perché come dice Sarri è una bestemmia? Il mister mi ammazza se dico una cosa del genere. Abbiamo raggiunto il terzo posto e per noi era già tanto, perché sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Vincere il titolo con il Napoli è lo che più felice mi farebbe a me, alla città e a tutti, no? Occhio malocchio, prezziamo le finocchio. Boris Sollazzo, buongiorno. Oh, Sollazzone. Buongiorno. T'ho appena mandato un messaggio, hai letto? Su Twitter? No, non ho ancora letto. Vabbè, ma non c'è la rapidità, non c'è la stessa velocità che ha, ad esempio, che ne so, Insigne oppure Allan, lo so. Sei un po' so, Britos. Per fortuna. Sei stato un po' Britos. Io no, infatti. Senti, ma questa scaramanzia prolungata, come la mettiamo? Ma per me non è che si può andare avanti. Cioè, Pardo almeno fa outing e dice il Bayern vince, il Bayern. Stavo leggendo Bayern Leverkusen, scusate, sullo schermo. Il Napoli vince lo scudetto, è candidata a vincere lo scudetto, magari anche per distacco, comunque in maniera abbastanza agevole, mentre lì no. Ma io pronuncerò quella parola a metà giugno, promesso. Ah, cioè, quello... capaci tutti. Così. Assolutamente. No, ma anche perché davvero, no, forse non la pronuncerei neanche se non fossi del Napoli, francamente, perché ci sono talmente tante variabili che, te l'ho detto, io ti dico, sono sicuro che il Napoli supererà gli 80 punti. Servirà? Per cosa servirà? Questo non te lo non dice, non dice neanche Mancini, però, che dice addirittura sono quattro squadre più forti di noi. Mi sembra un eccesso, Pier. Beh, lui però è veramente sfacciato. Diciamo, vabbè, dai, allora tu non sei sfacciato e Mancini lui è. No, non è così, sono nella stessa posizione. Dai, sono le due principali candidate per il titolo. Io ammetto di essere scaramantico, apprezzo molto i movimenti tattici di Sarri, sia quando li fa fare i suoi giocatori sia quando in conferenza stampa, diciamo, tiene una mano sotto la scrivania. Trovo che sia perfettamente in linea con una città sobria che non vuole, ci conosciamo bene, tu lo sai che invece a me piacciono quelli che dicono, anche magari sbagliando, rischiando una figuraccia epocale come ha fatto Garcia due anni fa, anzi l'anno scorso, vinceremo lo scudo. A me non dispiacciono quelli così. Ma guarda, allora posso sentire Pardo. Io sai come la penso, insomma, io ormai non posso più tornare indietro. Diciamo che il mio destino da opinionista quest'anno è legato al Napoli, nel senso che secondo me. Ma a te piacciono quelli che si espongono? Beh, io banalmente mi sono esposto. Se parliamo di allenatori, io credo che Garcia l'anno scorso abbia detto quella cosa dopo Juve-Roma perché voleva dare un segnale all'ambiente, alla squadra e a tutto il resto. Quindi secondo me era più che una, insomma, più che una mossa, diciamo, di coraggio, era una mossa tattica che poi non ha funzionato perché Roma invece si è sgonfiata, però ci poteva stare. E se torniamo sulla sostanza, per me, insomma, Napoli è la più forte di tutte, secondo me neanche di poco, però poi chiaramente possono succedere cose, il campionato è lungo, quindi sarebbe folle pensare che possa essere una passeggiata. È chiaro che è piena di mille insidie questa stagione, ci mancherebbe altro. È piena anche di mille insigne, però detto di mille siamo al top. Il però, signor Sollazzo, ma però, tu se dovesse succedere quella cosa che fai? Ti trasferisci a Napoli il 20 marzo, apri una rivendita, che fai? Ci spoglia. Io sono come Troisi e quindi mi trasferisco solo il giorno dopo, però penso che non userò vestiti per 10 giorni. Hai visto, te l'avevo detto. Scusa, Troisi mi fa pensare che oggi e domani che succede per gli appassionati di cinema? Ricomincio da tre, un film meraviglioso, l'esordio forse più fulgurante del cinema italiano. Oggi e domani e basta, tre, vero? Restaurato? Ricomincio da tre, effettivamente, sì, Restaurato potrebbe essere anche il titolo per il Napoli. E questo è il massimo che ti posso dire. Però, Pier, quello che ti voglio dire, hai ragione quando dici che Garcia disse quella frase non tanto perché ci credesse quanto perché doveva scuotere l'ambiente. Mind game, come sapete piace dire. Sì. L'ingiustizia di Torino. Però Sarri e anch'io facciamo la stessa cosa. Io ieri dicevo a Carlo in Camera Caritatis che mi auguro un pareggio per Napoli-Inter e me lo auguro perché conoscendo l'ambiente Napoli una vittoria potrebbe persino essere controproducente, sì, perché potrebbe portare una pressione nei confronti di giocatori che non sono espertissimi e che ancora non hanno vissuto, per dire, il trauma di andare sotto, di cercare di rimontare, potrebbe fare più danni che altro. Secondo me un bravo allenatore è anche quello che tiene basse le aspettative in una città che tende ad averle alte, a metterti grande pressione addosso. Secondo me a Napoli conviene vincere con l'Inter invece. È sempre meglio vincere che pareggiare, direbbe qualcuno. Grazie Boris, a ciao presto. Boris, leggi i messaggi. Ciao, leggi i messaggi. Ciao. A me spiace morire per Michele da Bari, Stefano da Bologna, non riusciamo a parlarci. Dai, Michele da Bari, saluta. Non possiamo. Dai, perché ci sarà bene Luca. No, Michele da Bari, Michele, sì, prego, sono, prego. Ci sono. Hai 14 secondi, vai. Va bene, vi dico solamente che abbiamo un pubblico fantastico. Un inno super e siamo come pubblico il quarto o quinto in Italia. Non so se è il quarto o quinto, ma è sicuramente anche questa è cronaca. Nella metà sinistra della classifica di Serie A. Arrivederci, ciao guys, see you later. Adesso